le carte sono date e tu hai in mano quel che hai. Mi voglia di bleffare, ma non la berranno mai. Per cui va bene anche così. Per cui va bene anche per forza così. Se tu non sia come ti volevano, se ti consola come te, ci siamo in un bel po', perciò perciò tu sei quello lì, perciò perciò noi siamo questi qui, con queste facce qui. Queste facce qui, contenti oppure no, siamo questi qui, perciò fra pregi e limiti. E queste facce qui, non sia tutto come lo sognavi tu, e forse sei rimasta senza principi di blu, però le cose stanno così, però se ti basta noi siamo qui, con queste facce qui. Queste facce qui, tra favole e realtà, noi siamo l'ultima, ma saremo scomodi. Queste facce qui. Facce davvero, facce ognuna con i propri specchi, ognuna unica, facce che son facce, che son facce così. Le carte sono date e ognuno ha messo il proprio chip. E non si può bluffare mai con queste facce qui, per cui va bene anche così, per cui va bene anche per forza così, con queste facce qui. Queste facce qui, che piacciono o no, o che disturbino, sono nostre, sono così, sono queste facce qui.